camminare tra la gente come se fossi invisibile, pensare a tutto quello che non va e riderci su, guardare il mondo da una luce diversa, con due spiccioli in tasca e tanta voglia di te. Le strade della notte sono mie, senza i confini, solo fantasie. La bellezza del cammino che va quando ti cerco, con gli occhi attraverso la città. Quando penso che potresti essere mia, toccando a perdersi tra le persone del centro, cercando di scappare da un mondo senza senso, desiderando la felicità dentro di noi. Essere qui, persi sotto la neve, dimenticando il mondo e noi. Rinascere sotto una luce diversa, siamo due state create a cera persa. Siamo due vite parallele che non si toccano mai, siamo giornate fredde, piene di guai, siamo un'eternità stupenda dentro di noi, in questo mondo finto siamo noi gli eroi. Essere liberi, ma liberi dentro, senza compromessi, senza indicazioni. Correre nella notte con le tasche vuote, ma con tante idee per un futuro che incombe. Come due fiocchi di neve che frullano nel cielo, come due stupidi che ci credono davvero, come le stelle che ci guardano su dal cielo. Siamo così, proprio così, sempre così. Che poi un altro non è che il trucco della vita. Siamo così, proprio così, sempre così. Che poi altro non è che il trucco della vita. Siamo così, proprio così.